Quando Gustave Flaubert morì nel 1880, fra le sue carte vennero ritrovati numerosi appunti e ritagli di stampa che probabilmente avrebbero dovuto servire per una seconda parte di Bouvard et Pécuchet, una seconda parte che non aveva fatto in tempo a scrivere. Alcune di queste carte, cui aveva contribuito anche un amico, un vicino di casa, Edmond Laporte, vennero pubblicate più tardi come il Dizionario dei Luoghi Comuni. Si tratta di un sottisier, ovvero di uno sciocchezzaio, una raccolta ben disposta in ordine alfabetico di concetti ed espressioni colti qua e là che avrebbero dovuto documentare inoppugnabilmente la stupidità del genere umano. Flaubert insegnava la via moderna ad un genere letterario che oggi è ben lontano dal mostrare segni di cedimento. Fra i tanti epigoni vari, io speriamo che me la cavo, eccetera, eccetera, ne ricorderò uno non del tutto a caso, quel dizionario antiballistico che nel 1953 scrisse Pitigrilli, avvalendosi sia del dizionario di Flaubert medesimo che di molti altri analoghi. A monte di questo genere letterario c'è l'assunzione di chi ritiene che al mondo le cose vadano male per colpa di una categoria facilmente identificabile e categorizzabile, come quella dei cretini o degli stupidi o degli imbecilli. In proposito mi parrebbe ovvio notare come questa assunzione comporti un'implicita autoinvestitura di aristocraticità, che essendo da un lato sicuramente di dubbio gusto, dall'altro finisce con l'occultare consapevolmente o meno la perfetta funzionalità di questa categoria di accusati nei sistemi di potere in auge. Voglio dire che il poveraccio definito come imbecille dallo scrittore aristocratico è pur sempre così definibile in virtù di un processo di alienazione che a lui è toccato per intero e dall'aristocratico scrittore, per fortuna, per censo, per quattrini o per potere, no. E voglio dire anche che a questo processo di alienazione contribuisce non poco, nella sua veste di zelante servo del potere, lo scrittore aristocratico medesimo. Fa un po' specie allora leggere in questi giorni un'intervista a Umberto Eco, che oltre ad attribuire gratuitamente a Flaubert l'opinione secondo la quale l'epoca sua avrebbe avuto il monopolio degli imbecilli, per poterlo facilmente smentire con la battuta tanto divertente sull'esistenza degli imbecilli anche ai tempi dell'uomo di Neanderthal, beh, oltre a ciò, dicevo, che è già disdicevole, oltre a ciò si lascia andare ad una lamentazione contro la crescita esponenziale della stupidità nel mondo attuale, asserendo esplicitamente che se gli imbecilli sono tanto numerosi è soltanto a causa della crescita demografica. Fa un po' specie per la superficialità ed il pressapochismo della sua argomentazione e delle basi ideologiche su cui questa argomentazione riposa. Fa tristezza assistere al tentativo di gratificare il capitalismo selvaggio e il libero mercato con l'alibi della crescita demografica. C'è tutto un sistema produttivo dell'imbecille, nonché una ramificatissima azienda per la sua manutenzione, di cui Eco si dimentica. Fa un po' specie la cosa anche per un altro motivo. E qui torniamo a Pitigrilli. Nel 1976 l'editore Sonzogno ripubblica in unico volume due vecchi classici di Pitigrilli, Dolicocefala bionda, che è del 1936, e L'esperimento di Pott, che è del 1929. E per renderli ghiotti ai palati fattisi più raffinati, li ripubblica con un saggio introduttivo di Umberto Eco. Ma guarda un po' chi si rivede. Bene. In quel saggio Eco sostiene la tesi grosso modo condivisibile che Pitigrilli fosse un moralista anarco-conservatore E fra le argomentazioni a sostegno di questa tesi c'è anche quella relativa al tipo di avversario che l'arguzia dello scrittore vorrebbe abbattere, ovvero all'oggetto storico della sua polemica. Diceva allora Eco che in Pitigrilli l'avversario è l'imbecillità umana. Ma aggiungeva anche che questa sarebbe stata una pericolosa posizione. Perché? Ma perché rendendo tutti imbecilli, dice Eco, assolve infine la collettività? E infatti, aggiungeva ancora Eco, è proprio la categoria di imbecille che è da rifiutare, come antistorica, qualunquisticamente snobistica. Beh, sono d'accordo con lui. Ma nel 1976, dove tirava tutt'altra aria. Ora, Eco ha 22 anni in più sul groppone, è cresciuto lui ed è cresciuto il suo conto in banca. Ora il qualunquismo è il massimo di intelligenza e di equità sociale a cui possiamo aspirare. There's something happening here, but what it is ain't exactly...